Pero Jesús es un caso diferente, porque Él murió y resucitó, y su amor por ti aún sigue vigente. Porque Él es un caso de la vida real. Sembra que no finirá, capine guerre corruzione, fino a dove finiremos. Lasciami dirti qualcosa di una persona speciale che mi dà gran sicurezza. Chi sarà? Superman, Batman o Indiana Jones, personaggi che la gente inventò. Più di un eroe, perché lui è il figlio di Dio, ed il suo amor per me è ancora operante, perché lui è un fatto vero della vita. Oh sì. Dell'anno, tutti vogliono festeggiare, regali, albero, Babbo Natale e un pranzo familiare. Però molti non conoscono il significato del Natale e pensano che è una storia in più. No, non può essere, ignori questa realtà, questa non è una storia in più. Gesù Cristo è il motivo di festeggiare il Natale, perché lui ci ha dato gioia e pace. Oh, Batman, trasformo, oh Superman, personaggi che qualcuno inventò. Tutti pretendono salvare l'umanità, ma sempre sarà fantascienza. Però Gesù, sì, lui è una cosa diversa, perché lui è il nostro salvatore, ed il suo amor per me è ancora operante, perché lui è un fatto vero della vita. Sembra un intellettuale, ma parla di religione in un modo superficiale. Lui dice che tutte sono buone e tutte ti portano in cielo. Confusione spirituale, che c'è? Non sto parlando di religione, Gesù Cristo è una realtà. Buddha, Confucio e Maometto nella tomba ancora stanno. Però Gesù, lui è una cosa diversa, perché lui morì e risuscitò, ed il suo amor per me è ancora operante, perché lui è un fatto vero della vita. Sì, Gesù è una cosa diversa, perché lui è il nostro salvatore. Perfect.